come fossi un paparazzo. Mettiti bene in posa e sorridi su sto cazzo. Sorridi su quel cesso chiamato Parlamento. Fai cissa a quelle merde che galleggiano lì dentro. Vota e rivota quando cazzo è che lo impari. La politica è un mezzo per curare i propri affari. Sia che abbia una X, sia che sia una scheda bianca, voto uguale a segno in bianco che tu fai per qualche banca. Col denaro ti schiavizzano in combutta con lo Stato. E gli uomini in divisa sono il loro braccio armato. Io sono il dissidente, non mi sta bene niente. Nessuna autorità, nessun presidente. Io sono il dissidente, non mi sta bene niente. Nessuna autorità, nessun presidente. Sento avvelenato come quello d'un varano. Sto qui e sputo il veleno che t'ammazza piano piano. Immortalo la realtà come fossi un paparazzo. Mettiti bene in posa e sorridi su sto cazzo. Agli uomini di chiesa vaffanculo a tutti voi. Come vivo la mia vita sono solo cazzi miei. Nelle mura dei conventi certe suore e certi preti sono i primi a trasgredire i vostri stupidi divieti. Vabbè l'oppio dei popoli, ma quale acido forte vi assicura di sapere cosa c'è oltre la morte. Vaffanculo un'altra volta e me parlano gli sfoghi dei fratelli e le sorelle arsi sopra i vostri rochi. Io sono il dissidente, non mi sta bene niente. Nessuna autorità, nessun presidente. Io sono il dissidente, non mi sta bene niente. Nessuna autorità, nessun presidente. Non sono dalla parte del potere, non ho poteri. Io sono incoerente come l'aereo. Qui c'è troppo puzza di Dio. Vaffanculo e ben pensanti, addio patria e famiglia. In un mondo limitato il cervello sbadiglia e si sveglia la mia rabbia e schiumo dalla bocca. Sono il cane impazzito, guai a chi mi tocca. Io sono il